A bordo campo di Dario Ricci. Ospite d'eccezione oggi a bordo campo, parleremo di calcio, il calcio di ieri, il calcio del futuro, e ci spingeremo fino ai mondiali di Brasile 2014, che molto probabilmente sono la meta del viaggio che il nostro ospite sta per compiere. Intanto però è sicuramente curioso vedere un CT campione del mondo, come lo è Marcello Lippi, e quello è il nome del nostro ospite, esordire in Lega Pro. Spieghiamo bene la storia, perché Marcello Lippi ha fatto il suo esordio come osservatore delle sfide della Lega Pro nella recente partita tra la nazionale Under 20 della Lega Pro, della ex Serie C, e la nazionale olimpica palestinese ad Assisi. Allora, ben trovato qui a Radio 24 a bordo campo a Marcello Lippi. Allora mister, che si prova ad esordire in Lega Pro alla sua età, Il mio ruolo, non ho ruoli nella Lega Pro, io sono stato un semplice ospite. Infatti, so che comunque diciamo questa avvicinanza è destinata comunque a continuare, no? No, sono stato invitato per questa partita e per altre partite, alcune potrò andare a vedere, altre no, ma non ho nessun tipo di ruolo io nella Lega Pro, sono semplicemente un ospite. Insomma, ospite gradito. Tra l'altro, si è visto qualcosa di bello in campo? Che effetto le ha fatto questa formazione palestinese? Buona, non credevo che fosse a questo livello. Poi ho saputo che sono solo 3 anni che hanno cominciato a giocare regolarmente, perciò poi ho saputo che non sapevo neanche che la partita che avevano fatto l'altra volta avessero vinto 3-0 loro. E oggi hanno confermato di essere una squadra a un discreto livello, con qualche buona individualità. Quindi, insomma, detto dal CT, da un CT campione del mondo, è un buon viatico per lo sviluppo del calcio anche in Medio Oriente. Direi di sì. Le chiedo ancora, rispetto invece proprio al tema Lega Pro, al campionato Lega Pro, crede che possa essere quello uno dei bacini dove poter formare i giovani talenti? Abbiamo visto che deve tornare ad esserlo. Deve tornare ad esserlo. Le società devono investire sui settori giovanili, che con i settori giovanili si possono costruire con buone strutture e buoni istruttori, si possono costruire dei giocatori che possono far parte delle squadre di Lega Pro, senza andare a prenderli in giro per il mondo e pagarli un sacco di soldi, e sarebbe un sostentamento per la Lega Pro. A proposito di giovani, direi che sugli scudi c'è Mario Balotelli, protagonista insomma nell'ultimo mese e mezzo di prestazioni di altissimo livello. Crede che ormai sia stato fatto il salto definitivo verso la maturità, sia come calciatore soprattutto per quello che riguarda chiaramente l'aspetto tecnico? Ma sul piano tecnico non c'è dubbio che è un giocatore che ha fatto un salto importante, è cresciuto molto, il livello del campionato in cui sta giocando con la sua squadra è molto alto, e lui si vede anche dal rapporto che ha con i compagni, al di là di qualche, chiamiamolo, colpo di testa che ogni tanto ancora si concede, però è un giocatore che gode di una grande considerazione, e lo stesso discorso vale per la nazionale italiana. Direi tra l'altro anche molto più maturo nel rapporto con i media, con la stampa, no? Pronto insomma anche al dibattito. Ma mi sembra che stia crescendo, che abbia finalmente capito che di lui deve far parlare soltanto attraverso il campo, non tanto attraverso quelle mischierate che ogni tanto fa, diciamo così. Sì, insomma, ecco, possono capitare. Le chiedo invece, il progetto tattico di Prandelli le piace, la convince questa idea? Prandelli sta costruendo una squadra che mi piace, c'è un bel senso di appartenenza, c'è un bellissimo spirito, una voglia di partecipare. Ho già detto tante volte che questo spirito mi ricorda quello della mia nazionale prima di Germania 2006, e mi auguro veramente di cuore che sia di buon auspicio. Penso che vicino al suo cuore ci sia anche questo Napoli che vola in Champions, no? Sì. Napoli in certe occasioni entusiasma, è entusiasmato per la qualità delle cose che ha fatto, ha avuto dei momenti di grande calcio e ha avuto dei momenti di grande anche sofferenza, ma perché quando si gioca contro squadre di questo livello è chiaro che ci sta anche un po' di sofferenza. La differenza, a mio parere, l'hanno fatta la qualità dei nostri difensori e la qualità del nostro portiere. Nei momenti di sofferenza sono stati molto più bravi loro che non i difensori del Manchester. Si torna insomma un po' alle radici della nostra scuola. Meno male che è così. Beh, senta, un calcio molto moderno invece quello della Juventus di Conte, no? Che lei ha detto, dice, rassomiglia molto alla mia prima Juve. Ma mi hanno chiesto, ogni tanto mi chiamano e mi chiedono se questa squadra di ora io trovo qualche analogia nella Juventus e mia. E io non è che voglio fare dei paragoni, però sicuramente sì, qualche analogia c'è, perché come spirito, come voglia, come entusiasmo, e non è soltanto entusiasmo e spirito e voglia, c'è anche l'organizzazione di gioco in questa squadra. E però ha cominciato nella maniera migliore, sta sfruttando al massimo il vantaggio di non avere le coppe, perciò è una squadra che ovviamente è in crescendo e ha bisogno di lavorare e ha la possibilità di lavorare, visto che non ha le coppe durante la settimana. Perciò penso proprio che se la giocherà fino alla fine con gli altri. Senta, ma è possibile che in questo meccanismo non si riesca a trovare un posticino per Alex Del Piero? Questa è la gestione di Antonio Conte che farà vedere se c'è la possibilità che questo posto ci sia oppure no. Poi insomma Alex nel caso deve farsi trovare pronto, ecco. Come ha sempre fatto. A partire da quella semifinale con la Germania, quando lei lo vide scaldarsi e disse questo qua entra e fa gol. Sì, infatti, è vero. Senta, a proposito di europei, invece, come li vede quelli della nazionale azzurra? Per gli europei bisogna onestamente dire che ci sono tre squadre che diciamo che in questo momento Spagna, Olanda e Germania si possono considerare forse le tre favorite. Però subito dietro l'Italia e l'Inghilterra si stanno benissimo con le loro caratteristiche. Le chiedo ancora, signor Lippi, ce lo confessi, glielo chiedo spassionatamente, quando è una domanda che mi è sempre rimasta in mente, mi fa piacere chiederglielo, quando dorme risogna Berlino o Johannesburg? Perché sono stati due momenti chiave. Berlino Berlino al 100%. Nessun dubbio. Ci chiediamo anche, ci interroghiamo sul suo futuro, insomma, ci sorprende vederla ancora lontano da una panchina? No, non vi deve sorprendere, è stata la mia scelta per un anno. Io ho sempre detto che a partire da ottobre sarei stato di nuovo disponibile per fare un'esperienza all'estero, perché mi piacerebbe fare un'esperienza all'estero e possibilmente in una nazionale. Quindi insomma, magari obiettivo a questo punto i mondiali del Brasile ci starebbero bene. Ci sarebbe bene una nazionale, prendere una nazionale che qualificarsi per i mondiali del Brasile e fare un altro mondiale, sarebbe una bella cosa. Come no, le chiedo ancora, portandola su temi meno lieti, crede che questo tavolo della pace proposto per Calciopoli possa effettivamente aiutarci a uscire finalmente da questa vicenda? Ma secondo me sì, perché hanno tutti una grande voglia di avere chiarezza su determinate cose. Ce l'ha la Juventus per vari motivi, ce l'ha l'Inter per altri, ce l'hanno le istituzioni calcistiche perché vorrebbero vedere finire tutti questi discorsi, queste cose. Perciò se tutti hanno voglia di vedere chiarire certe cose, certi aspetti, ben venga una possibilità di mettersi a sedere e perché no chiarirsi. Senta, in Brasile è pronto però col derby tutto juventino con Trapattoni, sì, perché l'obiettivo del Trap è quello, Vabbè, intanto adesso ci sono gli europei, prima ci sono gli europei, poi dopo c'è ancora tanto tempo per il Brasile. Bene, allora tutto pronto per il derby in Brasile con Giovanni Trapattoni alla guida della sua Irlanda. Intanto grazie a Marcello Lippi. A bordo campo.

E allora abbiamo sentito con Walter Rista come è nata la Drola, come è nato il progetto L'Ovale Oltre le Sbarre, ma quindi va detto che la squadra della Drola adesso è impegnata non solo nel progetto di recupero e di formazione, ma in un vero e proprio campionato, il campionato di Serie C piemontese. E allora, per capire come se la cava questa squadra del tutto particolare, abbiamo ospite Natale De Lorenzo, che è presidente della Drola Rugby. Benvenuto a bordo campo, presidente. Buonasera e grazie dell'invito. Allora, presidente, insomma, questa Drola Rugby come se la cava? Come sta andando il campionato? E poi entriamo anche nelle specifiche delle particolarità del vostro torneo. Allora, io direi abbastanza bene, considerato che soltanto da un paio di mesi e mezzo, saranno un'ottantina di giorni di, e neanche continui ovviamente, di allenamenti e di preparazione, gente completamente a digiuno di rugby tranne qualcuno che ha militato all'estero in qualche squadretta. Quindi insomma anche scuola rugby fate, non solo formazione, recupero, ma è proprio un vero e proprio avviamento allo sport. Questo senz'altro, perché a differenza degli altri sport di squadra, tanto per dire il calcio, il rugby ha una marcia in più che è data dall'assoluta sintonia, dal reciproco rispetto e delle norme e del comportamento da tenere in campo e fuori campo fra gli stessi giocatori e nei confronti degli avversari. Ecco, presidente, vero pure, sottolineiamo pure che il campionato della Drola ha esclusivamente, per ovvi motivi, partite casalinghe, no? Si gioca solamente in casa, nel carcere Lo Russo e Cotugno. Certamente, fortunatamente è stato accettato da tutte le squadre partecipanti, perché qualcuno avrebbe potuto anche rifiutare, però dirò qualcosa di più, che se all'inizio è stato accolto, magari, non dico a malincuore, ma comunque ha detto, pazienza, vuol dire che giocheremo tutte le partite in carcere. Man mano che affrontiamo le squadre e che ci confrontiamo sia sul campo che nel terzo tempo, il famoso terzo tempo nostro che si fa dopo la partita con pranzo, diciamo, con quella spaghettata offerta dai ragazzi, io li chiami ragazzi, così come tutti noi li chiamiamo ragazzi, dei detenuti, ecco, si è creato quel feeling per cui sono soddisfattissimi gli uni e gli altri e non hanno rimpianto il fatto di essere andati a giocare o di giocare ambedue le partite in dentro le mura, intramenia. Certo, del carcere Lo Russo e Cotugno. La settimana della Drola com'è scandita? Quanti sono gli allenamenti, in che orari e come sono strutturati, presidente? Ma nelle ultime proprio 2 settimane, credo che il nostro allenatore, il grande Stefano Rista, veramente, perché ha una passione unica, no? Non credo che altri sarebbero riusciti, ma chiunque è riuscito in questo compito che è fatto di amore, soprattutto di amore che gli è cresciuto dentro giorno dopo giorno. Ecco, gli allenamenti ne sta facendo quasi giornalmente, tempo permettendo ovviamente, perché i ragazzi sono completamente a digiuno del rugby, che ha tante regole particolari. Le faccio un esempio: nell'ultima partita di sabato scorso, giocata contro il Rivoli, abbiamo perso abbastanza bene. Il Rivoli sono primi classificati, abbiamo segnato 2 mete trasformate. Ecco, ho assistito ad un paio di mischie spontanee, con una addirittura siamo andati in meta, in cui, ripeto, addirittura ho visto partecipare a quella mischia spontanea 13 dei nostri che spingevano verso la meta avversaria. Insomma, non si fa una cosa del genere, e che l'ansia, il fervore ha preso tutti i giocatori e quasi tutti hanno fatto questa mischia, hanno spinto nella mischia spontanea. Dovrebbero essere un po' meno, quantomeno un massimo di 8, io direi, proprio coloro che si chiamano giocatori di mischia, ecco. Beh, contiamo molto sulla benevolenza degli arbitri per spingere la Drola verso la meta. Intanto grazie al presidente della Drola Rugby, Natale De Lorenzo. Beh, presidente, ci diamo appuntamento a fine campionato per vedere un po' come è andata questa prima stagione. Senz'altro, con i nuovi arrivi, new entry, credo che faremo ancora meglio. La ringrazio e tanti saluti agli ascoltatori.